Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, la scuola ha riaperto un po' dappertutto e allora ci interroghiamo su questo grande luogo dell'identità collettiva con un libro di Adolfo Scotto Di Luzio che si intitola La scuola che vorrei, è pubblicato da Bruno Mondadori, 122 pagine, 15 euro. L'autore è un noto esperto di storia dell'educazione e di scuola italiana. La tesi del libro non è particolarmente confortante perché l'autore dimostra il fallimento della scuola pubblica italiana proprio in quello che avrebbe dovuto essere il suo obiettivo principale, cioè quello di fornire istruzione di qualità che consenta a tutti di salire nella scala sociale. La scuola di massa, invece, dice Scotto Di Luzio, è incompatibile con la scuola di qualità e finendo così per diventare una sorta di supermercato. La scuola italiana, per Scotto Di Luzio, non era affatto arretrata e semmai è stato segno di arretratezza del dibattito politico ridurre tutti i grandi dibattiti sulla scuola, a partire dalla Costituente, esclusivamente allo scontro, al tema dello scontro tra scuola pubblica e scuole private. In questo, dice l'autore, anche la nostra Costituzione è arretrata. La scuola si è burocratizzata e per salvarsi, dice l'autore, deve recuperare un'idea del paese, della sua storia, delle sue tradizioni culturali e sociali e del modo in cui è possibile rinnovarle. La scuola ha bisogno di questo, di una rinnovata intesa su ciò che è degno di essere conservato e tramandato alle generazioni che verranno. E su questo sentiamo l'autore. Buongiorno ad Adolfo Scotto Di Luzio. Buongiorno. Adolfo Scotto Di Luzio, lei usa una bella immagine per definire la scuola democratica, dice che la scuola del noi, la scuola di massa è quella che permette di dire noi, però poi dà un significato contraddittorio, questo noi può assumere secondo lei un significato contraddittorio. Ecco, in che senso questo noi della scuola di massa, che cosa significa? La scuola aspira a costruire un'identità collettiva e dunque un noi, anzi questo è il suo ruolo essenziale in una società moderna, serve le esigenze della comunità politica che gli delega il compito di educare i giovani. Il punto è che questa capacità di costruire identità collettiva è entrata profondamente in crisi e questa crisi data almeno dagli anni Ottanta in Italia. E cioè dal momento in cui il paese ha cambiato faccia e la scuola non è stata più in grado di dare a questo nuovo paese, che intanto era venuto fuori, una cornice intellettuale adeguata. Ecco, lei ha detto in Italia, però il suo libro è ricco di riferimenti a esperienze straniere, in particolare americane e inglesi. Ecco, all'interno di queste esperienze, di questi ultimi decenni della costruzione della scuola di massa, c'è una particolarità, una peculiarità proprio della scuola italiana? Sì, la peculiarità della scuola italiana è, dal mio punto di vista, una peculiarità negativa, nel senso che l'Italia ha mancato l'appuntamento con quella dibattito, con quella discussione che soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti tra anni 80 e 90 ha investito la scuola a proposito del tema della costruzione delle identità collettive. Diciamo così che la scuola ha interrotto i suoi canali di comunicazione con l'università e con la cultura accademica e quindi ha, diciamo così, impostato il problema della sua crisi in termini puramente gestionali, come se fosse esclusivamente un problema di organizzazione e di buon funzionamento della macchina amministrativa. In Inghilterra e negli Stati Uniti, a partire da Thatcher e poi da Reagan e sempre di più negli anni 90, la scuola invece è stata al centro di quelle che sono state le vere e proprie guerre culturali per la ridefinizione del sentimento dell'appartenenza, appunto, dell'identità collettiva. Ecco, lei colloca la scuola in quella che lei stesso definisce una società degli individui. In questa scuola, in questa società, il merito, scrive, diventa vuota retorica, quindi un luogo comune, quello del merito, della meritocrazia, che lei in qualche modo demolisce. Fa molto parlare del merito, il punto è che non ci sono i luoghi dove applicarlo. Nel caso italiano questo è particolarmente evidente perché la massificazione dell'istruzione, che è stato un processo naturalmente non solo italiano ma che ha investito tutte le società sviluppate, le democrazie occidentali altrove ha preservato dei luoghi dell'eccellenza. In Italia questi luoghi dell'eccellenza sono stati sistematicamente demoliti. L'università naturalmente ha vissuto un profondo processo di degrado dei suoi standard qualitativi, ma nel campo dell'istruzione secondaria superiore è il caso della crisi del liceo classico. Allora io mi chiedo e chiedo a tutti quelli che mi ascoltano dove questo merito trova l'occasione per essere messo alla prova. E a questo proposito, quando parla nel capitolo dedicato all'uguaglianza, lei parla della società di eredi. Ciascuno di noi è, come dire, si porta dietro il bagaglio della famiglia dalla quale proviene. Ecco, che cosa può fare la scuola per rompere questo meccanismo ereditario così perverso? La scuola ha fatto moltissimo negli anni passati. Siamo usciti dalla Seconda Guerra Mondiale in ginocchio. Eravamo un paese che si portava dietro povertà antichissime e le miserie prodotte dalla guerra. A partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale la scuola ha avuto un ruolo importantissimo come ascensore sociale, è stato un grande veicolo di mobilità sociale, ha portato le persone fuori dal luogo in cui erano nate, le ha portate in un altro posto, che era il posto della loro carriera, del loro benessere, gli ha permesso insomma di rompere l'accerchiamento della miseria, della povertà e dell'emarginazione. Poi a un certo punto la scuola ha smesso di assolvere a questa funzione e lo ha fatto quando, paradossalmente, quando ha allargato, diciamo così, i suoi cordoni, cioè il mito della scuola per tutti, cioè di una scuola che non offre niente a nessuno, in realtà ha servito a demolire questa funzione della scuola come luogo della promozione sociale. La scuola serve a chi non ha nient'altro a propria disposizione che il proprio talento, perché gli altri, tutti gli altri si comprano la scuola migliore, è il caso di quelli che mandano i figli all'estero, ma chi non ha la possibilità di andare a studiare in un'altra città o addirittura di varcare i confini del paese ha a disposizione esclusivamente la scuola del villaggio, e se la scuola del villaggio è di pessima qualità resterà prigioniero di quel contesto. Un altro luogo comune che lei cerca di mettere nella giusta luce è quella legata a due parole molto di moda: innovazione e creatività. Che cosa la insospettisce di queste due parole? Mi insospettisce, diciamo così, il suono vuoto di queste parole. L'innovazione che cosa significa? L'innovazione è che bisogna mettere dentro la scuola i tablet, internet, il computer. Per fare cosa? Resta completamente vuota e inevasa la domanda relativa a cosa devono studiare, a cosa devono sapere gli studenti e naturalmente come si devono formare gli insegnanti. Questa idea che la scuola si debba aprire alle nuove tecnologie è un modo, diciamo così, piuttosto cinico per trasformare la scuola in un mercato, in un luogo di consumo dove fra l'altro gli studenti andrebbero a fare esattamente quello che sanno già fare fuori dalla scuola, perché tutti questi aggeggi elettronici sono il pane quotidiano degli adolescenti. La scuola non fa altro che introdurre nei propri spazi qualcosa che gli studenti, i ragazzi conoscono benissimo e quindi fra l'altro non fa un buon servizio agli adolescenti, perché gli ripropone appunto quello che gli adolescenti già conoscono, mentre invece la scuola dovrebbe essere il luogo in cui qualcuno fa esperienza dell'estraneo culturale, cioè di ciò che non conosce. E infatti lei conclude il suo libro richiamando la scuola al dovere di trasmettere cultura, quindi anche di questa parola molto abusata lei dà un'interpretazione particolare, anzi a un certo punto scrive che la scuola è una questione di buon gusto e che il gusto è la competenza tecnica di un lettore. Sì, il problema della scuola è che deve educare il giudizio. Le persone devono essere in grado di poter discriminare i significati del mondo, devono potersi orientare. Per fare questo devono avere, diciamo così, una coscienza ben nutrita, uno sguardo reso acuto, e tutto questo è il risultato di una formazione culturale rigorosa. Togliere la cultura ai giovani significa fondamentalmente rendere opaco il loro sguardo sul mondo. Grazie ad Adolfo Scotto Di Luzzi, autore della Scuola che vorrei. Buona Grazie domenica. A voi. E un altro libro sulla scuola, dal titolo anch'esso preoccupato, è quello di Norberto Bottani, economista esperto di problemi scolastici, che si intitola Requiem per la scuola. Questo è pubblicato dal Mulino, 144 pagine, 13 euro. Si parte qui dalla famosa indagine PISA, quella che mette a confronto l'efficacia dei sistemi scolastici a livello internazionale, che molto spesso vede l'Italia nei fanalini di coda. Un'indagine che consente quindi una verifica sui vari sistemi nazionali. E questa è un'innovazione che è partita, ricorda l'autore, rettore dal 2000, che ha segnato molte scelte delle politiche scolastiche nel nostro e in tanti altri paesi. Ritroviamo nel libro di Bottani un aspetto che tocca anche il libro di Scotto Di Luzio, ossia il fatto che la scuola pubblica italiana non ha coinciso con la riduzione delle discriminazioni sociali rispetto all'istruzione, così scrive l'autore. E in questo senso non si giustifica, aggiunge, la ripresa degli investimenti a favore dell'istruzione anche in un periodo di crisi finanziaria o di politiche economiche restrittive. Bisogna coniugare l'efficienza del sistema scolastico con l'equità e l'eccellenza. Quindi l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di eliminare queste distorsioni. La svolta che l'autore chiede è quella che consiste nel considerare la crisi come inarrestabile e ineluttabile, a meno che, appunto, aggiunge, le strategie politiche non vengano interamente ripensate. E poi approfondisce nel suo libro gli aspetti legati, appunto, all'equità e all'uguaglianza, sottolineando un paradosso che è ormai diventato universale: la diseguaglianza sociale cresciuta benché le disparità sociali rispetto all'istruzione siano diminuite, più gente va a scuola, cioè, ma le disuguaglianze sociali aumentano. Gli strati sociali superiori, spiega Bottani, sono diventati più ricchi e i poveri più poveri, anche se il divario educativo tra ricchi e poveri è in parte diminuito, e quindi su questo obiettivo bisognerebbe convergere per modificare le politiche scolastiche. Ultimi arrivi. Vi segnalo alcuni titoli legati anch'essi al tema della scuola. Il primo è di un autore indonesiano, Andrea Hirata, che si intitola La scuola ai confini del mondo, è tradotto da Elena Cantoni per Rizzoli, 350 pagine, 18 euro. Questo è un libro narrativo, un libro avvincente, ambientato in una scuoletta di un'isola indonesiana, che sarà testimone della esplosione della voglia di apprendimento e di crescita di un gruppo di 10 ragazze. E poi vi segnalo il libro di Viviana Mazza, Storia di Malale, pubblicato da Mondadori, 184 pagine, 14,90 euro. Malala Yousafzai, come ricorderete, la ragazza pakistana, la coraggiosa ragazza pakistana candidata al Nobel per la pace, la più giovane candidata al Nobel, per il suo impegno a favore dei diritti delle ragazze e delle donne, tra i quali rivendica in particolare la ragazza del Pakistan il diritto, appunto, all'istruzione. E poi vi segnalo un libro per cambiare genere, che è L'ultima fatica di un autore molto popolare, Valerio Massimo Manfredi, l'archeologo scrittore, che ci dà una rielaborazione del viaggio di ritorno di Ulisse da Troia nel libro Il mio nome e nessuno, pubblicato da Mondadori, 336 pagine, 19 euro. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di un altro grande tema che domina il dibattito politico nel nostro paese, cioè la giustizia, ma ne parliamo da un punto di vista insolito. Parliamo cioè del rapporto tra giustizia e cinema. E lo facciamo con un libro curato da Guido Vitiello, che si intitola In nome della legge, la giustizia nel cinema italiano, e pubblicato da Rubbettino. 178 pagine, 16 euro. Ci sono vari autori nel libro che esaminano diversi aspetti di questo rapporto, del modo in cui il tema della giustizia è stato trattato nella cultura e soprattutto nella cinematografia italiana. La situazione italiana, nota il curatore, è diversa da quella in particolare americana. Lì troviamo tanti film di ambienti giudiziari che danno vita a un vero e proprio genere, il courtroom drama. Da noi invece abbiamo sì film di ambientazione giudiziaria, ma diversi dal genere americano. E questo in particolare anche per la diversità del sistema giudiziario italiano rispetto a quello americano. Naturalmente non mancano anche in Italia degli ottimi esempi di questo genere, per esempio Il nome della legge, il film del 49 di Pietro Germi, dal quale abbiamo ascoltato alcune note, che instaura in particolare un perfetto parallelismo con il western. L'ultimo capitolo del libro, curato da Alessandro Perissinotto, studioso e giallista, esamina l'essenza del legal thriller nella letteratura italiana, che è anch'esso diverso per la differenza delle regole giudiziarie che vigono nel nostro paese. E allora, nella sua analisi, per il Sinotto assume come esempio due opere esemplari del diverso clima che troviamo nelle pagine italiane nel rapporto con la giustizia. Sono due opere di fine Ottocento di Remigio Zena e di Edoardo Scaffoglio. Il primo dei due autori che ho citato, Remigio Zena, fu un genovese vissuto tra il 1850 e il 1917, pseudonimo di Gaspari Imbrea, che apparteneva a una nobilissima e altrettanto conservatrice famiglia genovese e che era stato lui stesso magistrato per poi dedicarsi alla grande passione che era la letteratura. E di questo autore viene riproposto da Barion un libro che si intitola La Cavalcata, una lunga novella, 132 pagine, 9 euro, anch'essa ispirata alle esperienze giudiziarie che l'autore aveva appunto avuto nella Palermo di fine degli anni 80 dell'Ottocento. E troviamo qui un noir ricco di colpi di scena e di coloritura gotiche, dove si accenna anche alla mafia. La confraternita della mafia che lancia, scrive l'autore, minacce tenebrose che hanno tutte le guarentigie di essere mantenute se falliscono ai patti. A proposito di avvocati, ricordo una discussa figura, quella di Jacques Vergès, l'avvocato francese morto 88enne poche settimane fa, una figura nota di estrema sinistra, ma difensore anche di personaggi indifendibili come i criminali nazisti o Milosevic o vari altri dittatori africani. E di lui ricordo che sono usciti due libri pubblicati da Liberi Libri, Quante erano belle le guerre, 176 pagine, 16 euro, e Giustizia e letteratura, 356 pagine, 20 euro, tradotta in da Serena Sinibaldi. Nel secondo in particolare si parla di libri e processi celebri con parallelo spesso spiazzanti come quello che apre il volume tra i processi ad Antigone e quello a Giovanna d'Arco. Un giurista e filosofo scomparso anch'egli pochi giorni fa era Pietro Barcellona, di cui Castelvecchi aveva da poco pubblicato il libro, l'ultimo libro, Parole e potere, il nuovo linguaggio del conflitto sociale, 184 pagine, 22 euro. Già comunista, Barcellona è stato anche deputato alla Camera, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, e era un grande studioso che negli ultimi anni aveva avviato una profonda riflessione che lo aveva avvicinato anche alla Chiesa Cattolica. In questo libro Barcellona affronta un tema affascinante, quello delle versioni che caratterizzano molte parole, versioni e significati che sono quelli dettati dall'interpretazione corrente, da quelli che Barcellona appunto chiama i vincitori. Le parole, insomma, rappresentano l'espressione della capacità manipolatrice, così la chiama chi ha il potere. Per esempio, Barcellona critica la formula tanto di moda della società liquida, con un'osservazione che rimette in discussione lo stesso impegno nella vita sociale e politica. Barcellona infatti si chiede come si può costruire un progetto di cambiamento in una società vissuta come un flusso costante che non conosce alcun punto fermo. Sono tante le parole prese in esame, da globalizzazione a religione, e troviamo qui anche degli spunti polemici con molte letture correnti, per esempio lo scientismo oggi dominante, che secondo Barcellona non lascia scampo a chi continua a considerare l'essere umano una complessità mai completamente accessibile, la nostra civiltà come un enigma nella vicenda dell'intero universo. Si parla anche di meritocrazia, su cui l'autore manifesta la sua diffidenza perché parola ben diversa da merito, che collegava le abilità di ciascuno nella situazione in cui ciascuno si trovava a operare, mentre meritocrazia è collegato semplicemente a uno standard astratto e uniforme, così scrive, che impone di prescindere dalla personalità di chi deve essere valutato, dalle sue origini familiari, dall'ambiente in cui si è formata, l'attività che ha svolto, e quindi determina una omologazione conformistica. E non manca la polemica verso la concezione dominante della cultura, con qualche stoccata alle frequenti riunioni degli intellettuali su questo tema, magari appoggiate, così scrive, dal quotidiano della Confindustria. Tornando al rapporto tra legge e letteratura, segnalo il libro del giornalista Gabriele Romagnoli, Domanda di Grazia, Mondadori, 128 pagine, di 10 euro. Si parla qui di un processo autentico, quello di Andrea Rossi, un agiato e stimato professionista di Bologna, marito, padre di 6 figli, condannato all'ergastolo per omicidio. La sentenza non convince l'autore, che lo conosce da bambino e che ricostruisce qui appassionatamente la vicenda che vede imputato il suo amico in un processo assolutamente indiziario nel quale la difesa, secondo l'autore, non ha brillato. Quindi troviamo qui un'ulteriore riflessione in forma letteraria sul dramma della giustizia. Un altro libro sui film e sul rapporto tra i film e la cultura è quello di Antonio Monda, si intitola Il paradiso dei lettori innamorati, Mondadori, 156 pagine, 17,50 €. Lo scrittore ha incontrato 20 grandi colleghi, a ciascuno dei quali ha chiesto quale sia l'opera che abbia segnata la sua vita. Sono soprattutto scrittori americani, ai quali in particolare domanda quale sia stato il rapporto di ciascuno con il cinema. Lo stesso Monda nell'introduzione svolge alcune riflessioni sui film da lui preferiti. E in particolare l'ultimo intervistato è Gay Telese, che mette nella propria personale classifica al primo posto La dolce vita di Fellini, il grande regista che rivedremo nell'ultimo film di Scola che va nelle sale cinematografiche nei prossimi giorni, e ne parla così. Fellini ha realizzato molti capolavori, ma ciò che contraddistingue La dolce vita è il modo in cui riesce a raccontare un inferno travestendolo da paradiso. Il modo in cui sa mescolare immagini immortali con personaggi che chiunque, anche chi non è romano, può riconoscere. A cominciare da Mastroianni, uno dei miei attori preferiti. Sotto l'apparenza glamour, La dolce vita è struggente e decadente, e Fellini trasmette la paura di diventare come il suo personaggio, un giovane pieno di ambizioni che si perde nella dolcezza del vivere nella città eterna. Pochissimi film hanno così tante scene madri. L'inizio con la statua di Cristo che vola sui tetti di Roma, il bagno nella fontana di Trevi, la festa dei nobili, il suicidio dell'intellettuale, il finale sulla spiaggia con Marcello che non riesce a sentire la ragazza che gli sta parlando mentre viene pescato un pesce mostruoso. Mi emoziono persino a riparlarne. Si tratta di un affresco indimenticabile. Il confettino. Vi segnalo di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari Parto, diario di 9 mesi in acque, pubblicato da Franco Cosimo Panini, 14,50 €, un libro rovesciabile per leggere le due versioni della futura mamma e del bambino in attesa di venire alla luce su questo periodo straordinario della gestazione. Il libro è scandito da bellissime immagini metaforiche, spesso ironiche, su questo periodo appunto misterioso. Prima di salutarci vi ricordo che comincia il 19 alle 17 a Bologna e prosegue poi fino al 22 settembre a Palazzo di Renzo la 10ª edizione di Arte Libro, il Festival del Libro d'Arte. In questa occasione sono organizzate mostre di libri, appuntamenti, presentazioni di libri e per un'edizione che è in particolare dedicato al rapporto con la musica e con l'editoria musicale. E a questo punto ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.